un calcio al Porto, aperitivo benefit per lo Spartak Lidense al bilancione. Ciao, ci senti? Sì, buongiorno a tutte e tutti. Allora sì, come già introducevi te, faremo questa iniziativa il 10 settembre presso il bilancione accanto al vecchio faro di Fiumicino, e l'iniziativa è un calcio al Porto dalle 4 di pomeriggio fino intorno alle 22. E la giornata si strutturerà con un torneo di biliardino, un torneo di palleggi nel primo pomeriggio con dei premi costruiamone della Spartak Lidense, e a seguire aperitivo e DJ set nel quale si suoneranno Down by the River, Rullo Dub e Psycho D e Wida Clan, che ci daranno una mano insomma ad animare la giornata. L'iniziativa di per sé viene fatta appunto come benefit e raccolta di autofinanziamento per la Spartak Lidense, che è la squadra di calcio popolare del litorale romano di Ostia, che è attiva ormai da 2 anni, questo qui sarà il terzo anno di attività, e giochiamo in terza categoria FCC, provando appunto a reinserire all'interno di quel mondo, di quell'ambiente, una serie di valori, primi fra tutti l'antifascismo, l'antisessismo e l'antirazzismo, e in un mondo che noi stessi consideriamo marcio, appunto animato da interessi speculativi di fondo a tutti i livelli, sia da quelli più alti che da quelli più bassi. Pertanto abbiamo deciso di provare a ripartire dal basso all'interno di quello che è il mondo del calcio popolare, che negli ultimi anni si è sviluppato largamente su tutto il territorio nazionale con diverse squadre che sono già nate ad ogni livello e anche in differenti ambiti, che sia quello del calcio a 5, del calcio femminile o in diverse federazioni da amatoriali o appunto in FGC. Noi abbiamo scelto di inserirci in quel mondo, il mondo del calcio popolare, perché riteniamo che sia una strada percorribile, sia una strada giusta, provare in qualche modo a riportare dei valori all'interno del mondo attraverso lo sport, che sicuramente risulta essere anche un veicolo di inclusione sociale e di integrazione. Per questo poi portiamo avanti anche varie iniziative e forme di collaborazione con strutture che si occupano per esempio di migranti e con chi comunque porta avanti dei ragionamenti contro l'abbattimento di ogni frontiera o di meccanismi limitativi della libertà personale e della libertà di chi migra. Per cui il 10 settembre, come vi dicevo, ci sarà questo aperitivo per raccolta fondi e portare avanti tutte queste attività. Beh, io diciamo colgo l'occasione appunto di averti in collegamento per allargare anche un po' il discorso. Sicuramente negli ultimi anni qua a Roma abbiamo visto che le esperienze di calcio popolare che sono nate hanno avuto un discreto successo. Penso comunque all'Atletico San Lorenzo qui nel quartiere che ospita anche questa radio, che comunque è riuscito in qualche modo a aggregare molti molti giovani, anche non obbligatoriamente provenienti dal mondo dei centri sociali o dai collettivi universitari, intorno a quello che è un progetto sano come la nascita e la crescita di squadre che appunto anche provano a tornare all'antichità di quelli che sono dei valori dello sport, in qualche modo la socialità, lo star bene insieme, e anche un po' provare a fuoriuscire da questa retorica dell'importante vincere, che un po' nel calcio di oggi è diventato veramente l'unico comandamento al quale si dà ascolto. Allo stesso tempo abbiamo parlato più volte di calcio popolare, non provando a porlo in concorrenza col calcio mainstream. Cioè, noi sappiamo, no, che tanti hanno fedi calcistiche, seguono quello sport. Pensiamo anche, no, anche ai movimenti, a ciò di sano che c'è nei movimenti del tifo organizzato. Quindi proverei anche insieme a te a chiederti un parere rispetto a questa dicotomia tra calcio popolare e calcio mainstream, come possono entrare in relazione, e soprattutto secondo me, come il calcio popolare può nel tempo, allargandosi, crescendo, lanciare un campanello d'allarme per tutto quel mondo che ancora guarda il calcio mainstream come punto di riferimento, a mio avviso anche giustamente, mi ci metto in mezzo, per in qualche modo provare in maniera collettiva a riparlare di un calcio differente, di un calcio che in qualche modo riesca obbligatoriamente ad abbattere i costi e che non sia più così staccato dalla società in qualche modo, visto anche non solo i prezzi e i profitti dei calciatori, che è anche un diciamo appunto una banalità ormai, perché sono almeno 20-25 anni che guadagnano più o meno queste cifre, ma e anche lo svuotamento degli stadi, la mancanza di partecipazione al seguito della squadra, tutta una serie di campanelli d'allarme che speriamo nel tempo facciano interrogare anche altri rispetto alla direzione che sta prendendo il calcio giocato. Sì, beh, innanzitutto hai fatto un intervento molto ricco di questioni e di argomenti poi da trattare anche singolarmente. Provando a fare un ragionamento in questo senso, la prima cosa che mi viene in mente da dire è sicuramente il fatto che il motivo per il quale nasce poi il movimento del calcio popolare è proprio per l'insieme di questi campanelli d'allarme di cui parlavi te, nel senso che sicuramente c'è una composizione eterogenea e variegata all'interno di questa nuova figura rappresentata dal calcio popolare, che appunto è rappresentata da persone che magari sono fuoriuscite dal mondo del tifo organizzato o la continuano ad animare il tifo organizzato negli stadi, ma hanno scelto anche di provare a rimboccarsi le maniche e diventare effettivamente protagonisti di esperienze alternative. E questo perché è dovuto alla repressione altissima ormai che c'è negli stadi, all'aumento del costo dei biglietti e a tutto quello che un pochino stavi accennando te prima, ma che voglio dire è abbastanza lampante. Un altro aspetto che mi fa venire in mente è il perché poi la nascita del calcio popolare, e questo non serve nemmeno arrivare appunto al calcio mainstream, ma basta vedere come viene gestito poi il mondo calcio anche sulla sfera locale, nei campetti di periferia, nel quale un bambino per poter partecipare all'attività sportiva deve pagare 1000 euro l'anno, oppure queste strutture diventano merce di scambio elettorale, politico, ricircolo di soldi sporchi, per cui si è arrivati a un certo punto, che è fondamentalmente un punto di rottura, nel quale tutto questo meccanismo sta mostrando dei segni di cedimento importanti. Qualcuno ha deciso che lo sport più bello del mondo, lo sport più popolare del mondo, ovvero il calcio, perché poi veramente basta avere un pallone e due porte imbastite ed hai fatto una partita di calcio, andava in qualche modo ripreso, bisognava ritornare ai protagonisti. Ed è in quest'ottica, con queste basi, che si è scelto un po' di ripartire e di riprovare a costruire nei territori delle esperienze di calcio popolare. La prospettiva in confronto a quello che è il calcio mainstream è tutta da immaginarsi, perché in qualche modo, se noi analizziamo come esperienze più strutturate di calcio popolare ad oggi giocano in promozione, penso alla Fro Napoli, penso alle Bosche, al Quarto Grad, che sono squadre un pochino più strutturate, in qualche modo sono squadre comunque molto giovani, per cui hanno ancora tutto, ma così come anche noi e come le altre realtà che giocano in altri campionati, come dicevo prima, c'è ancora tutto da costruire. Sicuramente la speranza e la capacità nostra deve essere quella di riuscire a produrre anche un'alternativa a questo modello marcio del calcio mainstream, che appunto non è solo quello della competitività, non è solo quella dei costi, non è solo quella del ricircolo, della gestione in maniera sporca degli affari che girano intorno al calcio, ma è anche uno sport di valori che appunto può essere effettivamente portatore di inclusione, di socialità, di aggregazione e, che no, anche poi di voglia di vincere, però in un'ottica sana. E questa qui è un po' la sfida che ci siamo posti. Per esempio, il 5 gennaio dello scorso anno abbiamo organizzato qui a Roma un'assemblea nazionale del calcio popolare, che tra l'altro è stata anche molto partecipata, con la presenza di quasi una trentina di realtà dislocate su tutto il territorio nazionale, ed è stata una delle varie assemblee, uno dei vari incontri sul tema che c'erano stati, sicuramente la più partecipata e sicuramente non l'ultima. Per cui, diciamo, si sta facendo un ragionamento in questo senso. Dove si arriverà a parare, questo poi è tutto da vedere, nel senso sarà il tempo a dircelo, e sarà la capacità delle varie realtà e delle varie strutture che in questi ultimi anni si stanno effettivamente moltiplicando su scala nazionale a dirci che direzione prenderà il movimento del calcio popolare. Eh sì, sicuramente tutto quello che tu sottolineavi è particolarmente importante, non bisogna avere fretta in qualche modo, dobbiamo far sì che questi percorsi si sedimentino dentro i quartieri, ai paesi, per far sì veramente che in qualche modo il calcio ritorni un po' alle sue origini. Più in generale il discorso delle possibilità e dei soldi che raccontavi tu, quanto costa oggi fare dello sport, in particolare poi giocare a calcio, è un altro nodo interessante. Questo sicuramente lo sport e la salute della propria vita è qualcosa che dobbiamo riprenderci, e ci si può, diciamo che il mondo delle palestre popolari, del calcio popolare, del basket popolare sta dimostrando che con pochi soldi e con la voglia anche di spendersi per chi sa insegnare a giocare a calcio, insegnare il basket, il pugilato e tanto altro, è una possibilità concreta di migliorare la propria vita con pochi euro al mese con strutture che poi vengono migliorate nel quotidiano dal lavoro del quartiere, piuttosto che di coloro che ci si cimentano. Quindi sicuramente questo dello sport popolare è un percorso a cui auguriamo lunga vita. È immediatamente conflittuale nei confronti della gestione delle nostre vite, anche del lato sportivo, quindi sicuramente non mancheremo di tornare a parlare di calcio popolare e anche di sport popolare più in generale, perché la diffusione di queste pratiche è qualcosa di molto interessante, sia per migliorare la vita di tutti e tutte, sia anche in una chiave di alterità e conflittualità nei confronti di chi ci vorrebbe far pagare centinaia e centinaia di euro per frequentare una palestra, e piuttosto che per avere la divisa e la borsa di una squadra di pallone, di una qualsiasi squadra. Io ti ringrazio lo Spartak Lidense, ricordo gli appuntamenti di questa iniziativa che sarà sabato 10 settembre, un calcio al porto, aperitivo benefit per lo Spartak Lidense al Bilancione. Trovate l'evento Facebook creato dallo Spartak Lidense e veramente invitiamo tutti e tutte a partecipare a questa iniziativa, che sarà occasione di finanziare un progetto che merita tutto il nostro aiuto. Io ti ringrazio e lascio i radioascoltatori a una nuova interruzione musicale.